Piazza Verdi, puntata numero 14 di questa stagione. Il tema di oggi è la maschera. Avremo tante possibilità di esplorare questo concetto oggi, questo oggetto forse anche, a partire da una frase di William Somerset Maugham: a volte le persone portano con tale perfezione la maschera che si sono imposte da finire col diventare davvero ciò che volevano apparire. E questo ovviamente vale per tantissimi attori, vale anche però per tutti quanti noi nella nostra vita quotidiana. Sono le 15, 1 minuto e 36 secondi, noi siamo in diretta dagli studi di Corso Sempione. Piazza Verdi è un programma di Elio Sabella, in redazione Lilli Minutello, con la collaborazione di Domenico Cuomo e Daniele Gnola, assistenza tecnica di Massimo Bozzoni, Danilo Ambre e Antonio Topolino, la regia di Lilli Minutello. Chi ci volesse scrivere, SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Per chi ci volesse scrivere, Piazza Verdi @ chiocciola chiocciolina eccetera eccetera rai.it. I podcast delle ultime puntate, di tutte le puntate di Piazza Verdi e anche il podcast di questa, è disponibile ovviamente sulla app Rai Play Radio, qui a Radio 3. Morto, suicidio, rinvenuto cadavere, scomparso da parecchi giorni, scomparso, morto, in stato d'avanzata putrefazione, e mi hanno riconosciuto. Io no, io sono vivo. Ma chi sarà stato? Mi somigliava, certo. Avrà forse avuto i baffi, come me, la mia stessa corporatura. E mi hanno riconosciuto. Già. Ma io vorrei sapere chi si è affrettato così a riconoscermi. Possibile che quel disgraziato là fosse tanto simile a me? Vestito come me, tale e quale? Ma sarà stata lei, forse. Lei, la vedova pescatore, mia suocera. Ma pescato subito. Ma riconosciuto subito, non le sarà parso vero, figuriamoci. È lui il mio genero, povero Mattia, povero figliuolo mio. Eppure bastava, per Bacco, bastava aprire piano piano un occhio a quel povero morto per accorgersi che non ero io. E anche ammesso che gli occhi fossero rimasti in fondo alla gora, via. Una moglie che veramente non voglia non può scambiare così facilmente un altro uomo per il proprio marito. E ora? Che faccio? Senza identità? Senza un nome. Ma io ora torno a casa e le denunzio, sì. Le denunzio quelle due buone donne, le denunzio. Si sono affrettate subito a riconoscermi in quel povero morto. Bene, contente loro, contentissimo io. Una croce e non se ne parli più. Il fu Mattia Pascal, l'uomo che visse due volte, di Luigi Pirandello. Piazza Verdi, il tema di questa puntata è maschera, e qui siamo in pieno nel tema della maschera. Alberto Oliva, che firma la regia dello spettacolo e la drammaturgia insieme a Mino Manni. Che cosa avete fatto del fu Mattia Pascal e perché avete deciso di fare uno spettacolo su questo testo di Pirandello? A noi piace moltissimo, ormai da un po' di anni, come Compagnia I Demoni, lavorare su testi che non nascano direttamente per il teatro, ma che siano romanzi nei quali riusciamo a essere in qualche modo anche noi autori, pur nel rispetto dell'autore di partenza, ovviamente, e quindi partendo da un soggetto e pescando all'interno di un materiale molto vasto quello che poi va a costituire il tema, il materiale e le battute dello spettacolo, e quindi riusciamo a destreggiarci per pescare fuori qualche cosa che ci corrisponde e ci risuona in maniera particolare. Quindi ci piaceva l'idea, dopo aver lavorato per un po' di tempo su Dostoevskij, di tornare a Pirandello, di cui abbiamo fatto un Enrico IV qualche anno fa, e di tornarci attraverso questo romanzo straordinario, perché io dico sempre che Pirandello non è ancora un classico, cioè non è abbastanza lontano per essere già un classico e non è neanche abbastanza vicino per essere veramente qualcosa di nostro pienamente, e quindi trovandosi in quel limbo un po' nel mezzo, mi piace togliere un po' tutta quella patina borghese che c'è moltissimo nei suoi testi, anche in moltissimi dei suoi testi teatrali, E con il romanzo è più facile perché si possono togliere delle grandi scene e arrivare poi a quella che è la durata di uno spettacolo teatrale e quello che può essere il contenuto di uno spettacolo teatrale, andando a scegliere tutte quelle parti che sono invece assolutamente geniali e che ci sono tantissimo nel Fumattia Pascal. La suggestione di partenza ovviamente è di folgorante attualità, perché oggi l'idea di crearsi un'identità un fake esatto, e vivere, incidere tra l'altro sulla realtà e vivere veramente un'altra vita dialogando anche con delle persone è qualcosa che si può fare, lo fanno tutti, no, per fortuna, però lo si fa e non ti chiedo quali sono i tuoi fake, esatto, sui social, non te lo direi che... No, io in realtà non ho mai avuto questo tipo di esperienza, ma Facebook appunto è piena di profili di questo tipo e veramente è qualcosa che oggi non ha più quella portata rivoluzionaria che aveva quando Pirandello se l'ha inventato, prendendo tra l'altro da un fatto che poi era successo davvero, e comunque questo è un po' la suggestione di partenza, però in realtà è il sogno di tutti quello di poter a un certo punto cancellare tutto il passato e ricominciare una vita nuova che non sia quella quotidiana, quella consueta, con tutti gli errori che si sono fatti. Cioè il sogno di mettersi un'altra maschera e partire, esatto, per una nuova vita senza pagare le conseguenze di quello che si è fatto fino adesso. E che cosa significa confrontarsi dal punto di vista del teatro con tutte le problematiche che hai citato prima, cioè il mondo dei social, l'identità virtuale, digitale, eccetera? Come l'avete portato dentro lo spettacolo tutto questo? Ma guarda, noi siamo una compagnia, se vuoi, anche un po' anomala in questo senso, perché non, a me in particolare poi non piace che una tematica attuale venga per forza trattata in maniera direttamente legata a quello. Quindi in realtà nello spettacolo rimane come suggestione sullo sfondo, ma questo passaggio è così, è come il profilo Facebook lo fa lo spettatore, non glielo facciamo fare noi attraverso lo spettacolo. Quindi in realtà poi nello spettacolo non c'è, perché Pirandello già l'aveva, esatto, già sapeva l'aveva già che saremmo finiti così, esatto, e quindi è bello proprio farglielo dire così come l'ha detto lui e che sia poi lo spettatore a dire è proprio così, perché senza bisogno di doverlo sottolineare ulteriormente. Infatti lo spettacolo ha preso poi in realtà una piega molto artigianale attraverso il teatro delle ombre. Infatti quella che poi è la difficoltà maggiore nel portare lo spettacolo è il fatto che il romanzo si può permettere una dilatazione temporale enorme, raccontare tutta la vita di Mattia Pascal prima anche che lui faccia questo passaggio, cioè prima che indossi la maschera, esatto, prima che venga riconosciuto morto e che indossi questa nuova maschera di Adriano Meis. Quindi tutta quella prima parte di tutta la sua vita che lo porta a essere completamente esasperato dalla moglie, dalla suocera, dai debiti, dalla fatica di gestire questa routine quotidiana borghese insopportabile, l'abbiamo condensata in un teatrino delle marionette che è fatto attraverso la tecnica del teatro d'ombre, per cui tutto lo spettacolo si apre con questa scena di sagome che un po' cita il mito della caverna di Platone, no? Dove questi personaggi pensano che la loro esistenza sia soltanto quella delle ombre, poi a un certo punto si accorge di avere un corpo, si accorge di essere anche qualcosa di più, di poter essere qualcosa di più, e allora comincia una vita in carne e ossa che è quella di Adriano Meis. In realtà tutto questo parte da un capitolo che c'è nel romanzo che all'epoca in cui l'avevo letto a scuola proprio non me ne ero neanche accorto, perché poi è bello rileggere questi grandi romanzi e trovare questo capitolo che poi nel romanzo non ha neanche sviluppo, che Pirandello l'ha messo lì, ma Pirandello non mette mai niente a caso, e a un certo punto Anselmo Paleari, che è un personaggio che Adriano Meis incontra nella sua nuova vita, arriva in scena, arriva nel romanzo, anche appare all'improvviso dicendo ho i biglietti per il teatrino delle marionette, questa sera danno la tragedia di Oreste, andiamo, ho i biglietti. Ma lei, Adriano, si immagina che cosa succederebbe se a un certo punto all'improvviso, dietro a Oreste che è sul punto di uccidere la madre, si squarciasse il cielo di carta del teatrino delle marionette? No, dice, cosa succederebbe? Che ne so, che domanda è? Oreste diventerebbe Amleto e comincerebbe la tragedia moderna, perché la differenza tra la tragedia antica e la moderna sta tutta qui, in uno strappo nel cielo di carta, e lo lascia lì. E allora da questa suggestione del teatrino e del fatto che a un certo punto si possa squarciare questo cielo di carta, ho immaginato insieme a Mino che Mattia Pascal da sagoma si squarcia il telo, lui non si rivede più, perché non c'è più il telo su cui era proiettata l'ombra, e si accorge di avere un corpo, quasi anche come Pinocchio, scopre di essere un essere umano in carne e ossa, scavalca questa linea ideale del teatrino per il mondo del teatrino viene considerato morto e comincia a vivere una nuova vita in carne e ossa in cui si relaziona poi con gli altri attori e vive la sua seconda vita, finché alla fine cerca di rientrare in questo teatrino, di ritornare, perché è fallito. Non sto spoilerando niente, perché è chiaro che si sa. Martia Pascal, diciamo che un po' lo conosciamo. Esatto. Torna indietro, cerca di rivivere di nuovo questa vita di sagoma, ma ormai è impossibile, perché lui ormai non è più quella cosa lì. Ecco, abbiamo parlato di schermo, ritorno dal virtuale al reale. In realtà, quando tu dicevi lo spettatore capisce benissimo di cosa stiamo parlando, lo si capiva benissimo anche adesso. In questa nuova scena dove ci porta lo spettacolo, nel secondo frammento che ci fate ascoltare? Siamo arrivati a Casa Paleari, appunto, quindi Adriano ha vissuto i suoi anni di grande gioia, perché lui poi vive un primo momento di euforia, dove non ha più nessuno, una regola, può andare in giro, e poi però si stanca e dice: ma io voglio una casa, voglio riuscire a darmi una stabilità, e quindi va a finire in realtà in una gabbia, perché poi la cosa geniale di Pirandello è che questo qua credeva di fare chissà quale vita e poi in realtà finisce per imprigionarsi in una casa di matti. Uno di questi matti è Anselmo Paleari, il padre di famiglia di questa situazione, un po' filosofo, che lo travolge con una teoria interessantissima sulla vita, sulla morte e sul senso della vita, che è veramente paradossale e meravigliosamente pirandelliana, ed è il primo incontro quindi tra Mattia Pascal, Adriano Meis e Anselmo Paleari. C'è logica? Scusi? Dico, c'è logica? Materia, sì, materia. Ammettiamo pure che tutto sia materia, ma c'è forma e forma, c'è modo e modo, c'è qualità e qualità, c'è il sasso e c'è l'etere imponderabile. Per Dio, nel mio stesso corpo c'è l'unghia, c'è il dente, c'è il pelo e c'è per bacco il finissimo tessuto oculare. Ora sì, signore, chi vi dice di no, quella che chiamiamo anima sarà materia anch'essa. Ma mi vorrete ammettere che non sarà materia come l'unghia, come il dente, come il pelo. Sarà materia come l'etere. Ah, perché? L'etere sì, me l'ammettete come ipotesi, e l'anima no. Ma dico, ma c'è logica? Segua il mio ragionamento e veda un po' dove arrivo. Noi ora consideriamo l'uomo come l'erede di una serie innumerevole di generazioni, giusto? Come il prodotto di una lenta elaborazione della natura. E lei, caro signor Meis, scommetto, ritiene che esso, l'uomo, sia una bestia, anch'esso, crudelissima bestia, e nel suo insieme ben poco pregevole. Io concedo anche questo e dico: sta bene, l'uomo rappresenta nella scala degli esseri un gradino non molto elevato. Dal verme all'uomo, quanti gradini vogliamo ipotizzare? 8, 7, 5, 5 gradini, 5. Ma la natura ha faticato migliaia di secoli per salirli, quei 5 gradini, dal verme all'uomo, per diventare questa bestia che ruba, questa bestia che uccide, questa bestia bugiarda, ma che sa scrivere la Divina Commedia. E lei? Proprio lei, signor Meis, cosa pretende? Che a un tratto, paffete, tutto finito, tutto torna a zero, tutto torna al verme? Ma diventerà verme il suo naso, il suo piede, non l'anima mia, perbacco. Ma materia anch'essa, sì signore, ma non materia come il suo naso e il suo piede. Ma scusi, signor Paleari, scusi, ma le voglio fare una domanda. Un grand'uomo passeggia, cade, batte la testa, diventa scemo. Dov'è l'anima? Come dov'è l'anima? Ma sì, lei o io, che non sono un grand'uomo, ma che pure via, ragiono. Ecco, passeggio, cado, batto la testa, divento scemo. Dov'è l'anima? Ma santo Dio, ma perché vuole cadere? Batte la testa, signor May. Ma così, per un'ipotesi. Ma no, signore, passeggi pure tranquillamente. E invece pensi un po' ai vecchi, che senza bisogno di cadere e battere la testa possono così, naturalmente, diventare scemi. E allora lei vorrebbe provare con questo che fiaccandosi il corpo si raffievolisce anche l'anima, e poi dimostrare che l'estinzione dell'uno importa l'estinzione dell'altro. Ma scusi, immagini un po' il caso contrario. Il caso cioè di corpi estremamente estenuati, ma nei quali brilla potentissima la luce dell'anima. Pensi a Giacomo Leopardi, pensi a tanti vecchi, pensi a Sua Santità Leone XIII, ma di più, pensi a un suonatore e al suo pianoforte. A un certo punto, a furia di suonare, il pianoforte si scorda, un tasto non batte più, due tre corde si spezzano, e allora? Con uno strumento così ridotto, il suonatore, pur essendo bravissimo, dovrà suonare male. E se il pianoforte tace? Cosa succede? Non esiste più neanche il suonatore? Ah, beh, quindi il pianoforte sarebbe il corpo e il suonatore l'anima. Vecchio paragone, signor Mays. Ma scusi, ma non vorrà dire nulla per lei che tutta l'umanità, tutta, da che se ne ha notizia, ha sempre avuto l'aspirazione a un'altra vita? È un fatto questo, signor Mays, un fatto, una prova reale. E il fu Mattia Pascal, l'uomo che visse due volte, il testo ovviamente tratto dal romanzo di Luigi Pirandello, adattato da Alberto Oliva e Mino Manni. Alberto Oliva firma la regia, lo spettacolo in scena al Teatro Litta di Milano fino al 20 gennaio. Noi stiamo lavorando sul tema della maschera, qui c'è un personaggio che in qualche misura muore e risorge con una maschera diversa. Cosa succede agli attori quando interpretano un personaggio, secondo te? Che cosa muore e che cosa rinasce in un attore quando indossa la maschera di un personaggio? Beh, è un mistero fantastico che si ripete da 2500 anni ed è, credo, la cosa più bella del teatro. Insomma, io credo molto in un teatro di personaggi, anche se oggi magari è molto sdoganata l'idea della performance, del performer, del portare in scena se stessi senza più avere appunto una maschera, ma eliminare questo filtro tra la scena e la platea. In realtà il teatro che facciamo noi è un teatro in cui ancora esiste tanto il personaggio, perché credo sia la cosa più bella. E come d'altra parte dice Amleto, e come io credo tantissimo che sia così, è proprio quando tu indossi una maschera che sei veramente te stesso, e che comunque non è mai vero che tu sali su un palcoscenico e non hai una maschera, perché comunque sei lì e non stai portando te stesso, ma stai selezionando quella faccia della luna che vuoi mostrare di te stesso. Ed è una cosa bellissima, però, perché ti consente veramente la libertà di essere autentico, la libertà di essere sincero, proprio nel paradosso di non dire quello che sei veramente. E tu come regista come fai a portare i tuoi attori in quella zona di verità non verità che arriva dalla maschera? Che tipo di meccanismi metti in atto? In realtà loro sono la mia maschera, poi, in realtà, quindi in realtà è anche un mio modo di esprimere me stesso attraverso di loro, che è bellissimo, ed è quel gioco del teatro. Io cerco sempre di dare loro dei suggerimenti, degli analoghi, delle immagini, dei riferimenti, però poi anche molto di lasciarli liberi. A me piace che venga fuori tanto dell'attore nel personaggio che loro fanno. Cioè, per me è assolutamente molto difficile sostituire un attore quando si fa magari la ripresa di uno spettacolo, che sia un altro attore a fare quel personaggio lì, perché per me il personaggio si costruisce insieme con l'attore ed è imprescindibile l'apporto dell'attore. E questo vale anche nella fase della scrittura di questo testo, nell'elaborazione drammaturgica? Cioè, avete cambiato tu e Mino Manni il testo man mano che lavoravate e provavate lo spettacolo, o siete arrivati con un copione già chiuso che loro hanno interpretato? No, assolutamente la prima versione. Cioè, noi siamo partiti da un'idea. Già intanto il fatto che l'adattamento lo facciamo a quattro mani e Mino poi è l'attore che interpreterà il ruolo è già fondamentale. Cioè, per me sarebbe impossibile concepire di fare a tavolino l'adattamento e poi arrivare da Mino e dirgli devi recitare questa cosa, perché è proprio bello che la cosa venga fatta insieme. E ormai poi, conoscendoci da tanti anni, sappiamo anche quali sono quelle corde dove lui è più forte, dove riusciamo anche insieme a esprimere qualche cosa di più nostro, e cerchiamo anche sempre poi di osare su terreni inesplorati. E poi nel momento in cui andiamo a formare il cast ancora ci prendiamo il piacere di cambiare, perché quell'attore funziona meglio in un altro modo. E poi, data la fiducia che si crea nelle prove, a me piace sempre fare una prima fase di prove in cui proponiamo un adattamento, lo leggiamo insieme con gli attori, lo proviamo, facciamo anche delle improvvisazioni, delle letture insieme, ne parliamo, e poi lasciare un tempo anche abbastanza lungo, 2-3 settimane, un mese, in cui gli attori possono impararselo a memoria, masticarselo, fare anche delle delle proposte di cambiamento e soprattutto avendo un riferimento così forte come il romanzo di Pirandello, mi piace che ciascuno di loro poi se lo vada a rileggere e che vengano alle prove, cosa che poi sempre accade, dicendo: ma guarda, qua c'è questa battuta che voi non avete messo, ma non è che potrei rimetterla perché mi piace. Sì, no, boh, vediamo, e la cosa si costruisce insieme e la parola finale sul copione la diremo all'ultima replica. Sì, sì. E che cosa, secondo te, Mino Manni del protagonista del romanzo di Pirandello? Quali sono le corde che risuonano tra Mattia Pascal e la persona Mino Manni? Sicuramente questa voglia di libertà, di non incatenarsi, di non imprigionarsi in un'esistenza logica che sia scritta e definita, ma questa voglia di scombinare tutte le carte a un certo punto, di darsi la possibilità di ricominciare, credo sia una cosa che lui sente tantissimo e che anche nella sua professione ha fatto tante volte, anche quando appunto abbiamo cominciato a lavorare insieme, che ha abbandonato tutto quello che arrivava prima, e quindi questa possibilità di resettare tutto e ricominciare, che il teatro ti concede molto più facilmente che la vita e che è una bellissima sensazione di libertà che hanno gli attori e che lui ha in particolare e che ha tantissimo il personaggio di Pirandello. Cosa fai il 1 febbraio? Il 1 febbraio faccio una cosa totalmente diversa, che è una performance appunto per contrattare il concetto sul personaggio. Tutto quello che hai detto fino adesso non vale, il 1 febbraio non vale. Mi aspettavo questa incursione. Faccio una performance assolutamente dove non ci sono personaggi, ma è un bellissimo bando del Comune di Milano sulla riqualificazione dei mercati coperti, e invaderemo il mercato di Viale Monza, perché la cosa particolare è che il mercato di Viale Monza è in una zona multietnica, popolata da tutto il mondo, ma è frequentato solo da italiani. Quindi è rimasta questa enclave protezionista che vogliamo assolutamente aprire. E quindi faremo entrare il mondo all'interno di questo mercato con attori che arrivano da tutto il mondo, uno dal Senegal, da Cuba, dalla Russia, dalla Corea, ognuno abbinato a un ingrediente, il suo ingrediente particolare. Infatti ho chiesto a tutte queste persone di trovare un ingrediente che in maniera un po' prustiana evochi in loro un ricordo. La Madeleine di Proust il couscous Non lo so, credo siano cose molto più strane che proprio noi non abbiamo neanche mai sentito e che a loro si sposano con un aneddoto, una storia, un qualcosa che li richiama, e farò loro raccontare questo agli avventori del mercato e al pubblico durante questa performance promossa appunto da questo bando del comune, dall'assessorato di Cristina Tajani, l'assessorato al commercio. L'ultimo frammento, torniamo a questo punto al Mattia Pascal, a questo punto dove andiamo a finire? Arriva la maschera definitiva in scena, in qualche modo, che è quella di lo spirito, quello che noi non riusciamo a conoscere, forse non riusciremo mai a conoscere, invece qui arriva proprio in carne e ossa, o forse come evocazione o come... Beh, qui entra soprattutto una cosa che non abbiamo ancora citato ma che è fondamentale e che ci separa un po' dall'altro nostro grande autore, che è Dostoevskij, e cioè l'ironia. Pirandello ha questa cosa fantastica, che è questa sua ironia siciliana, questa ironia tutta italiana bellissima, e infatti c'è questa seduta spiritica in cui non si capisce quanto Pirandello ci gioca, quanto veramente ci sia la possibilità di uno spirito. Cioè, fino adesso abbiamo un morto che è vivo ma forse non è vivo, forse è morto ma è morto non è vivo, così adesso fanno la seduta spiritica evocando un vero morto, ma questo morto non arriva perché poi forse questa seduta spiritica in realtà è tutta finta, e alla fine si resta con quella sensazione che non lo sai se lo spirito c'è, non c'è, sembrerebbe che non ci fosse, poi in realtà forse c'è. E quindi insomma ho scelto questa scena, questo brano, intanto perché ci sono tutti gli attori coinvolti e poi perché c'è veramente il trionfo dell'ironia, del paradosso e di questo di giocare di Pirandello con la morte e col tema che ha messo in gioco. Ha messo in gioco il tema della maschera, ha messo in gioco la vita e la morte in questa situazione molto di limite, e adesso ti crea la seduta spiritica e ci scherza su tantissimo. Data l'occasione, li vorrei citare tutti. Insomma, diciamo chi sono gli attori che sono in scena: sono Mino Manni, Marco Balbi, Tizia Bravi, Alessandro Castellucci e Gianna Coletti. Sono le 17:14 minuti e 23 secondi. Il fu Mattia Pascal, L'uomo che visse due volte. Se volete, potete vederlo al Teatro Litera di Milano fino al 20 di gennaio. Max! Max! Ma chi è Max? Ah, un genio della musica, reciso dalla morte crudele prima che potesse dare i suoi frutti, così almeno dice la signorina caporale. È un suo antico compagno d'accademia, morto a 18 anni, e la comunica con il suo spirito, anzi, invasata dal suo spirito. Improvvisava qualche volta sul pianoforte fino a cader per terra svenuta. Max! Le mani! Le mani! Uniamo le mani, forza! La catena! La catena va mutata! Ma abbiamo già Max? Sì? Ma siamo in troppi questa sera! E questo è vero, sì, ma mi sembra che così stiamo benone però, eh? Oh, zitto, Terenzio, lasciamo che decida Max! La catena non gli pare ben equilibrata! Qua, da questo lato! Il signor Anselmo farebbe bene a prendere il posto della signorina Adriana e viceversa. Ah, sì, sì, Adriana, sì. Vieni qui. È contento? Sì. È contento così? Grazie, signorina! Ma che cos'è? Luce! Luce! Che è successo? Qualcuno vi ha dato un pugno! Un pugno? Ma come si spiega? Basta! Non voglio più saperne! Basta! Ma no, signorina caporale, signori miei, questo è un fatto nuovo, stranissimo. Bisogna chiederne spiegazione. Ma a chi? Ma come a chi? A Max! A Max. A sedere, avanti, se i fenomeni si riveleranno di nuovo con troppa violenza vorrà dire che smetteremo. A sedere. Giusto. Max, sei ancora lì? Due colpi vuol dire sì, bene. E come va, Max, che tu, tanto buono, tanto gentile, hai trattato così malamente la nostra cara signorina caporale? Ce lo vuoi dire? Tre colpi vuol dire no, non ce lo vuol dire, non insistiamo. Sei ancora un po' alterato, Max? Lo so, ma vorresti dirci almeno se la catena così disposta è di tuo gradimento? Sì, bene, bravo, Max. E ora vorresti darci un segno del tuo buon animo verso di noi? Che bisogna parlare a chi? Forse Max ci prepara qualche altra bella manifestazione, forse una luce. Concentriamoci. Oddio. Ma che cazzo è? Ma dov'è? Il tavolino! No! Il tavolino si muove, si solleva! Sì. La levitazione! Bravo, Max! Via! La seduta è conclusa! Ma no, ma come conclusa? Sul più bello, signorina caporale! Adriana! Imbecille, ma che ho fatto? Ma che ho fatto? Che ho combinato? Niente. Che ho combinato? Siamo giusti. Ho fatto all'amore. Al buio. Era colpa mia. Non ho più veduto ostacoli e ho perduto il ritegno che m'ero imposto. Papiano voleva togliermi Adriana. E la signorina caporale me l'ha data. Me l'ha fatta sedere accanto e si è buscata un bel pugno sulla bocca. Poveretta. Lì si facevano gli esperimenti della morte. E Adriana accanto a me era la vita. La vita che aspetta solo un bacio per schiudersi alla gioia. Adriana. Ma che speranze ti ho acceso in cuore con quel bacio? Troppe cose senza parlare ti ho detto, stringendoti la mano. Un bacio. Infine... ha suggellato il nostro amore. E ora? Come rispondere coi fatti alla promessa? Posso farti mia, Adriana? Ma nella gora del mulino, là, la stia, ci hanno buttato me e quelle due buone donne. Non ci si sono buttate loro e libera, dunque è rimasta lei, sì. Lei, mia moglie. Non io che mi sono acconciato a fare il morto lusingandomi di poter diventare un altro uomo. Vivere un'altra vita, sì, un altro uomo. Ma a patto di non far nulla. E che uomo, dunque? Un'ombra d'uomo. E che vita. Ha baciato Adriana con le labbra d'un morto che non può rivivere per lei. Se tu, Adriana, conoscendo il mio strano caso, tu... No. Neanche a pensarci. Tu così pura, così timida. Ma seppure l'amore fosse in te più forte di tutto, più forte di ogni riguardo sociale... Povera Adriana, come potrei io chiuderti con me nel vuoto della mia sorte e farti compagna di un uomo che non può in alcun modo dichiararsi e provarsi vivo? Ma che faccio? Che faccio ora? Che fare? La maschera della vita, la maschera della morte, il Fu Mattia Pascal, in scena al Teatro Litta fino al 20 gennaio. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Piazza Verdi. Vi abbiamo raccontato un sacco di maschere, teatro, cinema, musica. Ancora ne avremmo, ma dobbiamo finire. Il programma è firmato da Elio Sabella, in redazione Lilli Minutello, con la collaborazione di Domenico Cuomo e Daniele Gnola, assistenza tecnica Massimo Bozzoni, Danilo Ambra e Antonio Topolino. La regia è di Lilli Minutello, la voce che sentite è quella di Oliviero Ponte di Pino, che vi dà appuntamento a sabato prossimo, sempre qui da Piazza Verdi.